America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, incontro ravvicinato nel Golfo tra forze americane e forze iraniane. Cos'è successo? Che ci sono state le provocazioni da parte di vascelli iraniani e delle navi americane hanno sparato delle salve di cannone. Perché questa escalation della tensione dopo che c'erano stati gli accordi sul nucleare con Barack Obama e così via, così via? Perché la morte di Akbar Rafsanjani, 82 anni, ha avuto un infarto, che era stato un presidente dell'Iran, un moderato, cambia il quadro politico e gli esponenti, diciamo, più estremisti potrebbero risalire al potere. Qualcuno immagina che questa escalation della tensione con l'Iran sia legata proprio alla morte di Rafsanjani e vuole essere una dimostrazione da parte gli esponenti della Guardia Repubblicana, per esempio, che le cose nei rapporti con gli Stati Uniti peggioreranno, come dire, siamo pronti ad accogliere un Donald Trump aggressivo. Today President-elect Trump named his only son-in-law Jared Kushner to be a senior White House advisor. Questa è stata forse la notizia più attesa dal punto di vista politico. Jared Kushner, che è il marito di Ivanka, della figlia di Donald Trump, sarà nominato formalmente oggi come consigliere del presidente eletto. Ecco, questa scelta potrebbe mettere in moto alcune leggi contro il nepotismo, ma l'idea è che Donald Trump riuscirà ad aggirare queste possibili leggi. La storia però di Kushner, devo dire, è molto interessante, la riprenderò un po' più avanti perché vorrei parlarvi invece di una serie di altre notizie, di interventi di Donald Trump con il suo mezzo preferito, e cioè il tweet. E devo dire, i tweet di Donald Trump sono travolgenti, distraggono, ma soprattutto fanno notizia, muovono i mercati, fanno crollare ora il titolo della Lockheed Marietta, ora quello della Toyota perché criticava le due aziende. Esternano questi tweet spesso posizioni che non sono esattamente corrette, soprattutto quando si parlava di queste aziende. Ogni giorno ci sono fra i 6 e i 7 tweet che finiscono per bypassare i media tradizionali e fanno opinione diretta. Per esempio, ieri Trump ha twittato: grazie Fiat, per quel che mi risulta è il primo tweet in cui Donald Trump parla, anche se indirettamente, del nostro paese. Il tweet era una risposta all'annuncio di Sergio Marchionne, che aveva annunciato investimenti per $1 miliardo in Michigan e Ohio per la produzione di Jeep. Trump, come sappiamo, vuole che certi investimenti nel manifatturiero restino in America e non vadano in Messico, come programmava FCA. Poco prima, sempre ieri, Donald Trump si era preso soprattutto con Meryl Streep, che lo aveva attaccato durante i Golden Globe. Ve lo avevo raccontato un pochino ieri, ma forse oggi è meglio entrare in maggiore dettaglio. Sentiamo. When the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter. Ecco, avete sentito Meryl Streep ai Golden Globe, che non menziona mai il nome di Donald Trump, ma dice: siamo un evento organizzato dalla stampa, siamo attori, siamo artisti, siamo molto spesso stranieri. Bene, queste sono le categorie che sono nella lista nera, dice Meryl Streep di Donald Trump. E poi a un certo punto affronta questo tema molto delicato. Quando vi ho fatto sentire l'audio, dice: oggi siamo in un momento storico in cui la persona che chiede di sedersi sulla poltrona più degna di rispetto del paese, cioè nell'ufficio ovale, si permette di scimmiottare un giornalista disabile. E questa offesa viene da una persona assolutamente potente, in una posizione di privilegio, di prestigio, che si mette ad umiliare una persona che non può difendersi e che appunto è disabile. E questa è un'interessante dinamica della risposta di Trump, perché prima fa una breve intervista con il New York Times. Il New York Times pubblica un articolo in cui dà dei resoconti delle dichiarazioni, ma li mette in un contesto molto più ampio che può sembrare, diciamo, non propriamente favorevole a Trump. A quel punto Trump parte coi suoi tweet e dice: Meryl Streep è sopravvalutata, è legata al doppio filo a Hillary, che è la grande perdente. Ma sentiamo come Trump aveva imitato questo giornalista che ha un problema di artrogriposi, cioè una malformazione congenita alla mano. Per il resto è assolutamente normale, non ha difetti di pronuncia, anzi sentiamo per prima cosa la sua voce. They'll be looking for more evidence such as some witness accounts, perhaps. Ecco, come avete sentito, questo è Sergio Kovalevsky che parla, e dopodiché sentiamo Trump che lo imita. I don't know what I said. I don't remember. Ecco, avete sentito che Trump, qui dovreste vedere anche il video, non solo muove le braccia in modo strano, e in effetti Kovalevsky ha un braccio rattrappito, ma nella voce dà l'impressione che la persona, diciamo, non sia esattamente nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Certo, c'è una parte offensiva, diciamo, nel proiettare questa immagine di persone che magari non sono assolutamente nel pieno possesso delle loro facoltà mentali. Però tutto questo viene messo in movimento un po' dal modo di essere di Trump, un po' da questi suoi tweet. Allora dobbiamo chiederci, continuerà a twittare da presidente? Andremo oltre il rimpallo che molti giudicano infantile con un'attrice? Insomma, perché un presidente americano deve mettersi a confronto con Meryl Streep? Il conformismo, ci dice che un presidente degli Stati Uniti non reagisce alla prima provocazione, è cool, è freddo, è distaccato. E qui le scuole di pensiero si dividono, perché c'è chi sostiene che Trump sia un infantile che deve sempre fare un piccolo capriccio con tutti, deve mettersi al centro dell'attenzione, deve reagire subito. C'è invece chi definisce la sua tecnica parte di una strategia per la distrazione. E qui torniamo al discorso di Jared Kushner, come vi ho detto, il marito della figlia Ivanka, e che è successo che il New York Times ha rivelato che il 16 novembre 2016, subito dopo le elezioni americane, Jared ha incontrato al World of Astoria un businessman cinese, Wu Jiaoxi, che è presidente della Bang Insurance Company, un colosso da 285 miliardi di dollari, per discutere un progetto comune che riguarda un grattacielo che ha sulla Quinta Strada, il numero 666 della Quinta Strada, bellissimo grattacielo, dove tra l'altro alcuni di voi, chissà, magari anni fa ci sono anche passati, dove c'erano i quartieri generali al piano terra della Litalia. C'erano anche gli uffici dell'ENI a un certo punto. E allora, ma come mai questo signore che ha una tale influenza sulla Casa Bianca si incontra con un cinese con i possibili rischi di conflitto perché Trump aveva attaccato la Cina? Insomma, è chiaro che può nascere un vespaio, è chiaro che, diciamo, non si fa. Ci sono poi altre storie, ma ve le racconterò in un'altra occasione. Allora, tutto questo tweet con Meryl Streep, alcuni dicono, era stato fatto appunto per distrarre da una notizia, quella della nomina del genero a consigliera alla Casa Bianca, che sarebbe stata accolta in modo molto critico dalla stampa, e dunque questi suoi tweet su Meryl Streep hanno creato, come dire, dei piccoli petardi per distrarre l'opinione pubblica. Insomma, diciamo che non siamo più al ogni giorno ce n'è una, ma all'ogni giorno ce ne sono 10. Allora, tornando alla domanda di fondo, Trump confuso, elementare e pasticcione, o Trump furbacchione strategico che ci porta in una nuova dimensione della comunicazione? Ecco, non lo sapremo subito, però secondo me chi ha sempre sottovalutato Trump poi ha anche sempre sbagliato. Meglio attendere, perché forse la definizione di che cosa sia o non sia presidenziale, chissà, magari è destinata a cambiare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi è più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, Donald Trump continuerà ad essere Donald Trump. Let Trump be Trump. Si diceva una volta Let Poland be Poland, era uno slogan del presidente Ronald Reagan. Fa le cose a modo suo, e dunque vi propongo di Elvis Presley, My Way. No, not me, I did it my way. Or what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the word he truly feels, and not the word, the word of me. The record shows I took the blows and did it my way. The record shows I took the blows and did it my way. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.